e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Raggi laser, raggi laser. Non si scherza con il laser, anche se giocattolo, e questo è il messaggio che molti genitori avranno tratto e trasferito ai loro figli in seguito alla vicenda che è riportata sui giornali, da cui prendiamo spunto, che vede come protagonisti tre ragazzini tra 10 e 13 anni che, giocando con un puntatore laser a luce verde, hanno riportato dei seri danni agli occhi. E quindi noi ci collegheremo tra poco con il medico del reparto di oculistica presso cui è stata effettuata la diagnosi, di cui naturalmente è partita la segnalazione alla procura. La notizia ci offre lo spunto per sottolineare l'attenzione che dobbiamo avere nella scelta dei giocattoli per i nostri figli. Mi raccomando, questi puntatori vengono comprati solitamente nei negozi, non nei negozi ma nelle bancarelle degli ambulanti. Quelli incriminati, tra virgolette, hanno la forma di una stilografica, hanno questa luce verde. Ecco, mi raccomando, se per caso ne avete comprato uno per gioco per i vostri figli, 800 24 00 24, restate lì, chiamateci, non utilizzatelo, non mettetelo in mano ai bambini. Ne parleremo approfonditamente nel corso di questa puntata, in cui naturalmente con i nostri esperti parleremo anche dell'importanza di come tutelare la vista dei nostri figli. Di bambini continuiamo a parlare anche nella seconda parte. Per la pagina di denari parleremo di un tema molto delicato e importante, dedichiamo uno spazio alle tante famiglie italiane che si trovano a vivere la realtà della disabilità di un figlio. In Italia infatti ci sono oltre 3 milioni di persone disabili certificate dall'Istat e circa il 93% di loro vive in famiglia. La questione più delicata è quella del dopo. Cosa succederà quando non ci saremo più? È la domanda che i genitori si fanno. È una preoccupazione naturalmente che riguarda tanti aspetti, non ultimo quello economico. Ma sappiamo come cuore e denari spesso camminino di pari passo, e questo è sicuramente uno di questi casi. Se anche voi avete questa preoccupazione, la vivete direttamente o la vive un parente, un amico, chiamateci e raccontateci al nostro numero verde 800 24 0024. Ci sono degli strumenti che permettono di pensare al dopo di noi e di organizzarsi anche economicamente con il giusto anticipo per dare più garanzia al futuro di un figlio disabile. C'è una proposta di legge che si sta concretizzando, ve la racconteremo nella seconda parte di Cuore Denari, naturalmente con l'aiuto della nostra esperta. Occhi che sanno parlare, che ti prendono così. E se gli occhi di quei tre bambini sapessero parlare, ci direbbero: attenzione, col laser verde non si scherza, perché si rischia la vista. Ed è quanto insegna la vicenda dei tre bambini che hanno riportato dei seri danni alla retina dopo essersi autopuntati il raggio verde sparato da un puntatore giocattolo a forma di penna stilografica sugli occhi. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Carlo Torrazza, dirigente medico dell'unità operativa di oftalmologia dell'ospedale Sant'Orsola Malpighi, dove i genitori hanno accompagnato i ragazzi in tempi diversi, dato che non sono né amici né conoscenti. Buongiorno dottor Torrazza. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. È proprio così. Vero? Dottor Torrazza, sì. È una vicenda, insomma, che noi vogliamo segnalarla per far così avvisare i genitori. Certo, perché bisogna prestare tantissima attenzione, e la vicenda soprattutto insegna che i puntatori laser a luce verde non sono giocattoli come si potrebbe pensare o come dicono magari i venditori abusivi, ma sono oggetti molto rischiosi per la salute. Dal vostro reparto, dove sono stati portati i bambini che accusavano appunto questo abbassamento della vista, è partita proprio la segnalazione alla procura. Ma dottor Torrazza, come vi siete accorti che la colpa era del laser? Ricordiamo che i tre casi non sono, no, erano, sono arrivati in momenti diversi, da luoghi diversi, quindi non sono tre fratellini o tre amichetti che giocavano con lo stesso oggetto. Assolutamente giusto, i pazienti sono tre piccoli pazienti di età compresa tra i 10 e i 13 anni, uno residente nella provincia di Lucca, un altro residente qui in Bologna, la ragazzina, e il terzo paziente, se non sbaglio, è nella provincia di Reggio Emilia. Quindi sono tutti tre pazienti che non si conoscevano tra di loro. I pazienti sono giunti alla nostra attenzione in quanto siamo un centro di riferimento per le patologie della macula, diagnosi e trattamento, ed erano pazienti che dopo un'attenta anamnesi siano autopuntati il raggio verde laser che lei ha così ben descritto, questi laser che hanno una frequenza d'onda di 530 nanometri e che hanno causato un danno fototossico nella regione più importante della retina, che è la macula, deputata alla visione distinta dei colori e dei particolari. In particolare il ragazzino della provincia di Lucca ha riportato un deficit molto elevato alla vista nell'occhio interessato, si era autosparato il laser fortunatamente solo in un occhio, però ha una compromissione visiva molto importante, vede appena un decimo. Il bambino di Reggio Emilia si era autopuntato per pochi secondi il laser in entrambi gli occhi e ha perso tre decimi, e la ragazzina di Bologna ha perso fortunatamente solo un decimo, era quella che aveva osservato, si era autopuntata il laser per il tempo minore. Perché, dottor Torrazza, il danno riguarda, lei l'ha specificato, la parte nobile della retina, non la macula. Esattamente. E quindi il danno sarà permanente? Il danno purtroppo sarà un danno permanente. Mamma mia. Esatto, sarà un danno permanente. Senta, ma che caratteristiche ha questo laser a luce verde per risultare così pericoloso? E che differenze ci sono rispetto a quello dal laser rosso, che viene usato ad esempio durante le presentazioni in PowerPoint? Esattamente. E non è solamente per una differenza di colore? È una differenza di colore che praticamente impatta arrecando più danno fototossico il verde sulla retina, per cui vengono praticamente distrutti i fotorecettori maculari che i bambini hanno purtroppo avuto quando si sono autopuntati il laser. È una perdita irreparabile, la frequenza d'onda di questi laser è all'incirca 530 nanometri, mentre invece quella del raggio rosso, che è autorizzato al commercio, ma ripeto, non sono giocattoli, anche questi sono dei pointer che noi usiamo durante le conferenze, che tutti usano durante le conferenze, hanno una lunghezza d'onda più elevata e quindi meno dannosa e meno fototossica sui fotorecettori retinici. Ai genitori all'ascolto, dottor Torrazza, messaggi e raccomandazioni da fare: non acquistate dai venditori ambulanti, non acquistateli in genere questi puntatori a raggio verde, non dateli in mano ai bambini. Ma dottor Torrazza, assolutamente non sono giocattoli, che purtroppo entrambi, tutti i genitori avevano acquistato, i genitori e una nonna della bambina, avevano acquistato presso delle bancarelle, uno a Firenze, uno a Bologna e l'altro in provincia di Lucca. Non sono giocattoli che non devono essere dati in mano ai bambini e anzi bisogna possibilmente cercarli di togliere dal commercio, anche se è la cosa più difficile, però raccomandiamo ai genitori o ai parenti di non regalare questi fasci laser che durante le feste, nelle fiere, ormai sempre più frequentemente vediamo vendersi nelle piazze dai venditori ambulanti. Dottor Torrazza, ci sono altri pericoli che possono minacciare la vista dei nostri bambini che come genitori sottovalutiamo, perché di cui non conosciamo, sottovalutiamo i rischi? I rischi tra virgolette possono essere molteplici, in linea di massima bisogna sempre stare attenti con tutti i tipi di giocattoli che noi diamo in mano ai nostri figli. La regola fondamentale è usare il buon senso, sapere che ci sono dei giocattoli, quelli magari acuminati e tutto, che possono essere veramente pericolosi se usati in maniera impropria. Dottor Torrazza, la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata. Grazie. Io la ringrazio, arrivederci, grazie a lei. Quindi strumenti molto potenti e pericolosi, questi puntatori che vengono commercializzati in modo spesso incontrollato, a portata di tutti, a un prezzo molto basso, il che non può che rendere tutto ancora più rischioso. Ne parliamo anche tra poco con Fabrizio Premuti, presidente dell'Associazione dei Consumatori Consumer Italia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno dottor Premuti, venga con me a sentire le informazioni sul traffico e poi ritorniamo per dei consigli e delle raccomandazioni ai genitori all'ascolto. Cuore e denari. Guardami negli occhi, ti sembro sempre quella che vuole ad ogni cosa. La puntata di oggi prende spunto dal caso, da un caso che vede come protagonisti tre ragazzini che giocando con dei puntatori laser a raggio verde si sono danneggiati in modo serio la vista. Ne parliamo con Fabrizio Premuti, presidente dell'Associazione dei Consumatori Consumer Italia, che è in linea con noi per le ultime raccomandazioni, soprattutto per darci delle indicazioni utili. E la puntata di oggi ci offre naturalmente l'occasione per tornare ad occuparci della salute della nostra vista. Ci raggiungerà tra poco il dottor Massimiliano Serafino, che è aiuto clinico oculistico all'Universitario Ospedale San Giuseppe, all'Università di Milano, con cui impareremo a osservare come il nostro bambino osserva il mondo che lo circonda. Guarderemo i suoi atteggiamenti, lo guarderemo negli occhi e raccoglieremo anche le sue lamentele, i segnali. Molti bambini tornano oggi, in questi giorni, a scuola, possono lamentare stanchezza visiva, mal di testa. Sono disagi che ci raccontano e che non vanno trascurati. Ma, dottor Premuti, torniamo al nostro, alla nostra penna laser a raggio verde. Voi li avete definiti senza mezze misure delle potenziali armi, questi puntatori. Ma assolutamente sì. Beh, io direi che sono armi proprie, tra l'altro, perché sono armi che possono determinare non solo i gravi danni alla vista, l'abbiamo visto e l'abbiamo sentito poco fa anche dalle parole del dottore che ha parlato prima di me, ma sono armi che possono causare incendi, possono appiccare degli incendi tranquillamente, possono distruggere degli oggetti. Quindi non stiamo parlando del giocattolo, non stiamo parlando di qualcosa che, perché la troviamo sulle bancarelle, è innocua ed inoffensiva, ma stiamo parlando di un'arma propria che è perseguita addirittura dal codice di procedura penale. E quindi è assurdo che noi si possa pensare che questa venga messa in mano a un bambino di 7, 8, 10 anni, 13 anni e che questi possano considerare quest'arma alla stregua della spada di Star Wars e quindi poterci giocare con tranquillità. Certo. Con leggerezza. Andiamo subito a Emilio, dottor Premuti, dalla provincia di Pavia. Molti ascoltatori ci chiedono le differenze tra questi laser a raggio verde e quelli che vengono utilizzati, ad esempio, in contesti professionali, dove hanno la loro utilità per le presentazioni. Con il dottor Torrazza abbiamo già sottolineato la differenza di colore e anche di impatto sulla vista. Ma Emilio, buongiorno dalla provincia di Pavia. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare una domanda al dottore. Visto in televisione si vede sempre questi puntatori laser in occasione di partite, sì, di calcio e anche non, e volevo sapere anche se per la notevole distanza che c'è tra il pubblico e dove arriva il raggio laser puntato in faccia ai giocatori, in questo caso, se è altrettanto pericoloso. Grazie a Emilio dalla provincia di Pavia. Dottor Premuti, lo sappiamo, vengono utilizzati, no? Ma anche vengono, sì, puntati. Ha fatto molto sì, bene l'ascoltatore a sottolineare questo uso improprio, che a questo punto io chiaramente non imputo più al bambino, ma imputo a dei delinquentelli, perché non è soltanto l'uso che viene fatto nello stadio per poter dar fastidio al giocatore avversario. Molto spesso, purtroppo, con molta più cattiva anima, vengono usati dai cavalcavia delle autostrade per accecare chi sta guidando, quindi chi sta passando sotto, magari guidando una macchina oltre 100 km orari. Quindi questo significa veramente voler far male, ecco, a qualcuno. Pensi che un ascoltatore Davide, dottor Premuti, ci segnala che quando era in vacanza ha saputo che un pilota militare è stato obbligato a rientrare dal volo per essere stato accecato dal laser. Ci chiede se è possibile. Comunque il messaggio, dottor Premuti, è chiaro. Vogliamo anche voi, come naturalmente con lei come presidente di un'associazione di consumatori, qual è il messaggio che vuole dare e che cosa state pensando di fare di fronte a episodi di questo tipo? Ma tanto il primo messaggio è proprio per salvaguardare chi non è consapevole, quindi i giovani, i bambini, è dire ai genitori che laddove siano già in uso in casa questi laser, al di là del colore, perché poi sicuramente il verde è quello più dannoso proprio perché opera su basse frequenze, ma è dannoso il bianco, è dannoso il rosso, soprattutto quando vengono puntati da molto vicino, quindi cercare di eliminare l'uso di questi oggetti da parte dei bambini. La seconda cosa, come vogliamo agire? Vogliamo agire scrivendo al Ministro dell'Interno, e questo lo abbiamo già fatto ieri chiaramente, e chiedendo al Ministro dell'Interno un intervento più radicale presso gli ambulanti e le bancarelle, perché questo, la vendita avviene quasi esclusivamente per ambulanti e bancarelle. Adesso io invito chiunque ci stia ascoltando, e anche lei, a farsi una passeggiata stasera in Piazza Duomo a Milano oppure a Piazza di Spagna a Roma, e voi troverete decine di ambulanti che giocano con questi lasi per venderli. E nei pressi degli ambulanti abbiamo vigili urbani, la polizia, i carabinieri, ma che cosa ci vuole per sequestrarli laddove già esiste una normativa che ne dovrebbe garantire il sequestro, e quindi ne dovrebbe garantire la non commercializzazione? Certo. Allora è bene che il Ministro dell'Interno richiami le forze dell'ordine, che i sequestri vengano operati, che questi apparecchi non circolino più sulle nostre strade, perché anche il fatto del pilota è un fatto non sporadico. All'aeroporto di Bergamo di questi problemi ne sono capitati oltre 20 volte. Questo è capitato a Firenze, a Bologna, a Roma. Allora che cosa vogliamo aspettare? Che dopo i tre bambini, che non sono i soli purtroppo, ci sia qualche disgrazia di quelle veramente di cui ce ne dobbiamo ricordare? Io penso che bisogna intervenire prima e applicare la legge, e non è che stiamo chiedendo misure straordinarie. Dottor Premuti, prima di salutarla, voglio sentire anche il parere del nostro prossimo ospite, con cui parleremo di vista dei nostri bambini, il dottor Massimiliano Serafino, aiuto clinico oculistico universitario all'ospedale San Giuseppe, Università di Milano. Dottor Serafino, buongiorno anche a lei. Buongiorno Nicoletta, grazie dell'invito, buongiorno a tutti voi, buongiorno. Nessun caso di laser a raggio verde da voi? Noi non abbiamo avuto casi di danni da laser a raggio verde. Questo non vuol dire ovviamente che il laser a raggio verde non faccia male, anzi io mi associo ovviamente a tutto quello che è stato detto precedentemente, perché effettivamente il laser a raggio verde, per proprio caratteristiche legate alla monocromaticità, alla lunghezza d'onda, al fatto che sia monodireazionale, diverso dalle altre luci, fondamentalmente il laser è diverso dalle altre luci, può provoca anzi dei danni irreversibili sicuramente a livello retinico. Naturalmente arrivano tanti messaggi. Uno voglio subito leggervelo: sono un controllore del traffico aereo, riceviamo decine di segnalazioni da piloti, civili e militari, di interferenze da parte di laser. Abbiamo procedure specifiche e modulistiche di segnalazione che normalmente eseguiamo. Dottor Serafino, ci sono ascoltatori che ci chiedono anche se le luci il raggio verde del mouse può generare pericoli. Non c'è da creare nessun allarmismo, altrimenti avremmo i nostri pronto soccorso strapieni pazienti con danni, quindi allarmismi non ce ne devono essere. Però è anche vero che non si deve sottovalutare il problema, quindi ci vuole sempre il giusto mezzo, per cui da un lato non sottovalutare il problema, perché è un problema molto importante, data la larga diffusione, certo, e non controllo soprattutto, come spesso accade nel nostro paese, delle leggi, perché esistono delle regolamentazioni nel campo. I raggi classe 1 e 2 non sono dannosi e possono essere commercializzati, gli altri no, ma purtroppo non sempre quello che è scritto corrisponde poi alla verità. Il dottor Serafino rimane con noi per tutte le vostre domande, i vostri dubbi sulla vista dei bambini. Ringraziamo il dottor Fabrizio Premuti per essere stato con noi, gli auguriamo una buona giornata, andiamo a sentire le notizie del nostro GR e ritorniamo insieme. Numero verde a vostra disposizione 800 24 00 24 per parlare del raggio laser verde, ma non solo. Grazie, tra poco. E denari. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. E noi ripartiamo dopo il GR con questa bellissima canzone che ci fa pensare al rapporto tra genitori e figli. Tra poco ci dedicheremo in particolare a quei genitori che vivono ogni giorno la realtà di un figlio disabile, tante preoccupazioni per l'oggi, ma anche tanti pensieri per il domani. Cosa succederà a mio figlio quando noi non ci saremo più? Una domanda ricorrente, da questa domanda partiremo con la nostra esperta. Nella pagina di denari, infatti, torniamo a presentarvi il Trust, una forma giuridica politica che ha proprio l'obiettivo di tutelare queste situazioni proprio dal punto di vista economico. Quindi se anche nella vostra famiglia c'è questa preoccupazione per il futuro, se un pensiero che magari avete condiviso con un amico, un parente, una persona cara, questa è l'occasione giusta per fare le vostre domande al nostro esperto, per saperne di più, per chiarire i vostri dubbi. 800 24 00 24. Guardami negli occhi, ti sembro sempre quella. E nella pagina di cuore noi continuiamo a osservare gli occhi del nostro bambino. Siamo partiti dalla vicenda dei tre bambini che sono stati diagnosticati, sono stati accolti nell'ospedale di Bologna, è stata fatta la diagnosi, hanno avuto un danno molto importante alla vista per essersi autopuntati la luce di un laser verde, di un puntatore. Naturalmente le domande che arrivano al nostro centralino sono tante. In linea con noi il dottor Massimiliano Serafino, con cui vogliamo oggi occuparci della vista dei nostri bambini, dei controlli da fare, dei segnali che possono avvertire i genitori e possono spingerli a controllare la vista dei loro bambini. Ma dottor Serafino, lei è ancora in linea con noi, rispondiamo anche alle domande dei nostri ascoltatori che vogliono sapere se ci sono delle luci particolarmente pericolose per gli occhi. Noi non vogliamo fare allarmismo, vogliamo mandare dei messaggi chiari in modo che i genitori siano avvertiti: attenzione a questi puntatori laser a raggio verde, non sono giocattoli, non vanno date a mano ai bambini. Dottor Serafino, che cosa possiamo aggiungere per non fare allarmismo ma dare tutte le informazioni utili per fare una buona prevenzione ed evitare dei rischi? Sì, ma io direi che essenzialmente è chiaro che il laser a luce verde è quello più potenzialmente dannoso. È chiaro che questi bambini se li sono autopuntati, quindi questo vuol dire che erano a una distanza molto ravvicinata e quindi anche questo fa la differenza. Una cosa è un laser puntato negli occhi a 20 centimetri e una cosa certamente a 20 metri. Certo. Anche questo è una cosa molto importante. Come ho detto prima nel precedente intervento, se così non fosse avremmo gli ospedali completamente intasati di bambini con danni da laser, considerata la diffusione di questi laser oramai che sono presenti su tutte le bancarelle. Quindi il concetto da chiarire è che il laser a raggio verde, se utilizzato in maniera indiscriminata, senza alcuna coscienza e puntato negli occhi, è potenzialmente dannoso. Quindi questo vuol dire che bisogna stare attenti, ci vuole una corretta legislazione che in realtà già esiste, come al solito ci vogliono dei corretti controlli. Certo. Detto questo, non bisogna certamente, come dire, essere, no, creare degli allarmismi esagerati, questo non c'è, ma è ovvio che qualcosa va fatto. Ecco, bisogna stare attenti ai nostri figli o ai figli. Certo, e ad esempio chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24 per parlare della vista dei nostri bambini. E se siete miopi, presbiti, ipermetropi e siete genitori, avete una ragione in più per chiamare e mettervi in contatto con noi, perché sebbene sia possibile che due genitori portatori di un difetto visivo non lo trasmettano ai propri figli, la gran parte dei problemi oculari presenti in famiglia viene ereditato. Dottor Serafino, è corretto? È corretto, sì, è possibile una certa ereditarietà dei difetti di vista. È anche vero che due genitori che non hanno alcun difetto di vista possono avere dei figli con difetti, certo, di vista. È anche vero che due genitori che hanno difetti di vista non necessariamente erediteranno ai figli gli stessi difetti di vista. Quindi il quadro è molto complesso e multifattoriale, ma certamente se un genitore ha di difetti di vista importanti deve avere un occhio di riguardo, no? Per il proprio figlio, un ulteriore controllo. I piccoli tra l'altro riconoscono con difficoltà i loro problemi visivi perché non hanno nessun elemento di paragone. Esistono però dei segnali chiave che possono aiutarci a intercettare precocemente un eventuale problema, dottor Serafino, perché sì, ricordiamo che oltre il 10% dei bambini presenta anomalie della funzione visiva nel corso dei primi anni, ma spesso, vuoi per mancanza di informazione, negligenza, non vengono intercettati e quindi curati, e le ripercussioni possono poi pregiudicare la vista in età adulta. Certo, in maniera permanente, certo, questo è assolutamente vero. Allora, diciamo così, sicuramente se il bambino lamenta dei fastidi, che può essere bruciore agli occhi, che può essere un mal di testa, avvicina molto gli oggetti, si avvicina molto al televisore, è opportuno fare una visita oculistica. Ma questo è molto riduttivo, perché bisogna precisare una cosa. Sì. Tutti questi questi segnali che io ho appena elencato possono anche non significare assolutamente nulla ed essere semplicemente degli atteggiamenti del bambino, oppure anche lo stesso mal di testa, sì, non necessariamente, anzi direi quasi mai, è un problema, un vero di occhi, problema, certo, visivo. Quello che è importante sapere è che gran parte dei disturbi visivi del bambino, quindi dell'occhio pigro, dell'ipermetropia o della miopia, eccetera, soprattutto la miopia, cioè l'occhio pigro, è asintomatico. Il problema importante è che è asintomatico. Ecco perché più bisogna sicuramente stare attenti ai segnali che il bambino lancia, questo è fuori discussione, ma ciò che è ancora più importante di questo è lo screening, cioè ogni bambino ai 3 anni, 3 anni e mezzo deve fare una visita oculistica e in tutto questo il pediatra di famiglia deve guidare i genitori, altrimenti se noi aspettiamo che il bambino lamenti qualcosa per portarlo dall'oculista potrebbe essere troppo tardi. Per dirle, dottoressa, se io ho un bambino che da un occhio vede bene e dall'altro vede molto poco, non me ne accorgo. Questo bambino è in grado di fare qualsiasi cosa. Certo. E se io aspetto, perché che lui compensa con l'altro, bravissima, occhio. E quindi io mi trovo con un bambino a questo punto che magari mi arriva a 7 anni, a 6 anni, a 7 anni, perché per caso si accorge che da un occhio non vede bene quando va a scuola, ma è troppo tardi, non posso fare più niente. Giuseppe ci chiama da Milano, 800 24 0024. Benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno al dottore. E in realtà il dottore forse ha più o meno appena risposto a quella che stavo, alla domanda che stavo per fare, perché è un bambino di 4 anni che quest'estate abbiamo portato in visita da un oculista e gli ha diagnosticato un astigmatismo, sì, di circa, adesso non ricordo la gradazione, comunque quindi gli abbiamo dovuto mettere gli occhiali. Sì. Nel contempo ci è stato detto che sarebbe stato utile, per evitare in futuro problemi di occhio pigro, far allenare gli occhi, entrambi gli occhi, con una benda durante il giorno per un determinato numero di ore, alternando la benda da un occhio all'altro. Per fare di ginnastica all'occhio. Premetto che io ho sofferto di questo problema da piccolo, sono fortemente astigmatico dall'occhio sinistro e leggermente astigmatico dall'occhio destro e ho portato la benda per 3 anni e il problema però l'ha risolto. Nel senso che non ho perso l'occhio, perché me l'hanno diagnosticata solo a 10 anni, quindi io per 10 anni ha fatto bene a prestare attenzione alla vista del suo bambino e a portarlo per tempo a un controllo. Professor Serafino, la storia di Giuseppe è emblematica, no? Da qui possiamo trarre un'indicazione per i genitori che sono all'ascolto di bambini in età ancora prescolare. Assolutamente, in età prescolare direi 3 anni, perché se per prescolare intendiamo 5 anni, potrebbe essere anche tardi. Prescuola materna, diciamo. Esattamente così. È importante seguire uno screening oculistico. E ribadisco, in tutto questo il pediatra di famiglia sa bene come fare e cosa fare, può guidare i genitori, visto che il pediatra di famiglia è un punto di riferimento molto importante per le famiglie italiane. Professore, io devo passare al prossimo tema. Naturalmente le domande dei nostri ascoltatori possono arrivare al nostro indirizzo di posta elettronica, ma prima di salutarla vorrei commentare con lei uno studio che riporta un'informazione che tra l'altro avevamo già in parte commentato e anticipato con il suo collega, il professor Paolo Nucci. Riguardo alla possibilità di prevenire la miopia, questa volta è uno studio cinese, i risultati sono arrivati proprio in questi giorni, che sottolinea che per prevenire la miopia, è un disturbo refrattivo, quindi sarebbe sufficiente far giocare i bambini all'aria aperta almeno 1 ora al giorno e poi soprattutto evitare di farli stare troppo vicino agli oggetti, e quindi ci riferiamo anche, no, all'abitudine dei bambini magari a stare curvi sui tutti questi giochini, tablet, perché ormai li usano anche loro. Professor Serafino, che cosa ne pensa? È sufficiente? Sì. Allora, sufficiente no, ma necessario sì, nel senso che io sono del 73, la mia generazione e quelle precedenti, quando finivamo di studiare non avevamo PC né tablet né cellulare, si andava giù in cortile a giocare. Certo. Esatto. Con l'arrivo di questa nuova tecnologia questo non succede più, si finisce di studiare dove c'è un'attività per vicino importante, si continua utilizzare oggetti dove l'impegno per vicino è molto importante. Quindi questo sicuramente ha determinato un incremento della diffusione della miopia. E noi infatti con il, al di là di questo studio, che è quello appunto dell'area di passare del tempo un'ora all'aperto, in realtà proprio per cercare di ridurre questo impegno per vicino esiste anche la possibilità con il collirio di atropina diluito di 100 volte, questo è un altro studio molto importante, uscito già da alcuni anni a Singapore e già negli Stati Uniti viene utilizzato, e anche noi col professor Nucci lo utilizziamo, un'atropina diluita di 100 volte per cercare con dei meccanismi molto particolari, agendo sulle cellule a macchio, insomma adesso non entro nei dettagli fisiologici chiaramente che sono un po' noiosi, in questa maniera si riesce a ridurre nel circa 65% dei casi la progressione della miopia, quello che ho utilizzato ogni giorno ovviamente per un paio d'anni. Quindi e questa possibilità è riservata ai bambini naturalmente, che vengono la cui miopia viene diagnosticata precocemente. Esattamente, precocemente, ci devono essere, deve essere fatta una visita, ci devono essere, bisogna valutare che ci siano delle caratteristiche e che ci sia l'idoneità per questo, e con un'assoluta innocuità può essere utilizzata. Quindi può essere arrestata la miopia? No, può essere rallentata. Rallentata. Sì, rallentata, arrestata ancora non possiamo. Ci vuole ancora, vi state impegnando ci per? Ci stiamo impegnando. Va bene, certo. Allora vi aspettiamo per questo grande risultato. Grazie professor Serafino per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Lei dottoressa Carbone, grazie tante, saluti a tutti. Grazie, ed è tempo di cambiare argomento. Come vi abbiamo anticipato, la pagina di Denari oggi la dedichiamo ai genitori di un figlio disabile che si preoccupano di ciò che gli succederà dal punto di vista economico quando loro non ci saranno più. Allora voglio dare subito il buongiorno e ringraziare per essere qui in linea con noi la nostra ospite, l'avvocato Francesca Romanna Lupoi, che è vicepresidente dell'Associazione Trust Italia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, se anche voi da casa avete questa preoccupazione, apriamo i nostri cuori, confidiamoci. Se la vivete direttamente oppure la vive un parente, un amico, 800 24 0024. Avvocato, lei lavora da parecchio tempo ormai ad una proposta di legge che viene chiamata Dopo di noi. Ce la vuole raccontare? Di che si tratta? Sì, con grande piacere. Questa proposta di legge ormai intanto voglio dare notizia che è in dirittura d'arrivo. Oh, bene. E quindi abbiamo un comunicato stampa dell'onorevole Argentin che è proprio di ieri, quindi mi fa piacere che siamo così tempestivi oggi. Un comunicato ANSA che ormai le varie commissioni hanno dato parere favorevole e dovrebbe andare dal 29 settembre in Parlamento. Quindi dovrebbe poter diventare. Siamo molto contenti di poter dare ai nostri ascoltatori questa bella notizia in diretta, ecco, è proprio una notizia d'agenzia. Esatto, di ANSA, ecco. Di ieri, quindi che vuol dire dopo di noi, vuol dire che cosa è questa proposta di legge? E il futuro è dopo di noi, questo chiaramente è un pensiero anche abbastanza angoscioso che hanno i genitori che in famiglia hanno un figlio disabile. Quindi che vuol dire organizzare il momento in cui il genitore viene alla famiglia, il sostegno viene meno e devono pensare al periodo di vita del disabile successiva alla scomparsa dei genitori o comunque dei familiari. Certo. E quindi creare una rete assistenziale che può organizzare, può dare delle garanzie per il futuro del proprio figlio. Noi insieme a lei, avvocato, oggi vogliamo parlare di uno strumento giuridico ben preciso, il trust, quindi è importante che lei ci aiuti bene a capire di che si tratta, come funziona. So che lei conosce molto bene, che c'è anche un'associazione di cui lei fa parte, il Trust in Italia, che riunisce 700 tra avvocati, commercialisti e notai. Tra l'altro il trust è uno strumento molto utilizzato nei paesi anglosassoni. Vero, è corretto. Ma allora ci faccia la carta d'identità del trust, l'ABC. Allora, intanto sì, io rappresento l'associazione Il Trust in Italia, che ha sede a Roma, ma anche delle sedi locali in tutto il territorio nazionale. E il Trust in Italia nasce come un'associazione senza scopo di lucro che ha proprio la finalità di diffondere questo istituto. Come lei diceva giustamente, nasce nei paesi anglosassoni, ma ormai dal 92 noi abbiamo ratificato una convenzione, si possono fare i trust anche in Italia. Okay. Quindi noi non abbiamo una legge interna, ma possiamo richiamare le leggi straniere che sono moltissime, che riconoscono il trust. Bene. Quindi possiamo fare il trust al nostro notaio di fiducia in Italia, con tutti gli elementi italiani, dal trustee, i soggetti coinvolti, ora spiegherò in modo sommario chi sono. Ecco, ma per chi non lo conoscesse, io ho letto che qualcuno definisce il trust come una sorta di donazione congelata. Le sembra appropriata questa definizione? È una pessima definizione. Perché? Mi dispiace per chi l'ha detta. Ecco. Perché tutto è tranne che congelare. Il trust uno strumento totalmente flessibile, è proprio la sua particolarità che è in eterno adattamento. E che significa? Significa che io parlo come genitore, no? Io sono un genitore che voglio appunto preordinare questo patrimonio che vorrei lasciare a mio figlio. Mio figlio non è capace a gestirlo per le sue situazioni personali. E quindi a chi lo lascio? Dopo di me devo lasciarlo a qualcun altro, non posso lasciarlo a mio figlio, va da sé che devo lasciarlo a un altro soggetto. Okay. Mi fido quindi di un qualcun altro. Sì. E a cui però non do direttamente il patrimonio che va a confondersi nel suo patrimonio personale. Sì, mi fido di questa persona, sì, mi fido certo, però poi dopo di me che chissà, ne sa cosa ne farà. Certo. Benissimo. Allora io gli affidiamo qualcosa di troppo importante. Bravissimo, ecco, perché gli affido la vita di mio figlio. Esatto. Allora io con il trust riesco a segregare, a separare questo patrimonio che io do a questo soggetto che si chiama trustee. Okay? E quindi accanto al patrimonio di questa persona se ne aggiunge un altro che è il patrimonio segregato, separato. Quindi io questo patrimonio che io ho dedicato a mio figlio lo trasferisco, lo dono a questa persona che si assume delle obbligazioni di gestirlo solo ed esclusivamente a vantaggio di mio figlio, e se non lo fa è soggetto ad una serie di responsabilità. Perfetto, quindi archiviamo quella brutta definizione di donazione congelata e sposiamo la definizione chiara e anche rassicurante che ci ha dato l'avvocato Francesca Romano Lupoi, che resta con noi. Adesso noi facciamo una piccola pausa per i mercati, poi di nuovo insieme con Alberto da Bergamo, Fiorenzo dalla provincia di Padova e le vostre telefonate 800 24 00 24 per saperne di più, ma anche per raccontarci le vostre esperienze. Cuore e denari. L'alba di domani ci sorprenderà. La preoccupazione per il domani di un figlio disabile, questo è il tema molto delicato ma anche molto importante che stiamo affrontando oggi nella pagina di Denari. In particolare vi stiamo presentando l'istituto del trust, la forma giuridica più adeguata a tutelare le persone disabili per garantire una vita dignitosa dal punto di vista economico e non solo, quando i familiari più stretti non ci saranno più. C'è un'associazione, si chiama Trust in Italia, che sta conducendo una battaglia parlamentare particolarmente importante, aggiungo io, affinché venga riconosciuta un'adeguata dignità legislativa a questo strumento. In linea con noi abbiamo l'avvocato Francesca Romana Lupoi, che ci ha dato però un'ottima notizia. Avvocato. Sì, certo, confermo. Vero, certo. Perché ormai ci siamo, possiamo ci dire siamo. Così. Ecco. Esatto, ormai ci siamo. Il lite è stato anche, devo dire, abbastanza veloce, perché nel giro di, dopo tante battaglie, queste alle spalle ci stanno, e devo dare merito anche all'onorevole Liane Argentin, che mi ha tanto seguito per quanto riguarda questa parola trust, che per farla arrivare in Parlamento non è stato facile, ma lei ha confidato molto in questo, perché nelle iniziali proposte di legge il trust non era previsto. Hanno previsto dei fondi di sostegno e invece devo dire che dovremmo esserci, insomma. Ecco, ci fa, lei ci ha aiutato a capire di che cosa si tratta un po', no? Ne ha dato una puntuale definizione di questo istituto. Prima di dare la parola ai nostri ascoltatori, ci fa qualche esempio concreto? Che tipo di utilizzo potrebbe fare del trust la famiglia di una persona disabile? Parliamo di famiglie normali, avvocato, perché il trust viene spesso associato a situazioni che non ci sembrano molto vicine a noi, no? No, ad esempio nel campo della disabilità assolutamente bisogna sfatare questi luoghi comuni, no? Che dire il trust è per grandi patrimoni. Ecco. Non ha nulla a che vedere con il trust per i soggetti deboli. Generalmente, poi ci può anche essere certo. realtà nel grosso patrimonio, ma non, generalmente noi stiamo parlando di, ed ecco perché poi questo poi si riallaccia alla battaglia della legge, e cioè vuol dire che quando io voglio proteggere mio figlio, cosa gli voglio lasciare? Fondamentalmente la casa in cui abita, perché desidero che voglia, possa restare, continuare ad abitare in quella casa, nei suoi affetti, nel suo ambiente, e magari quel poco che sono riuscita, quel poco, quello che sono riuscita a tenere in banca, che quindi può continuare a vivere con quei miei risparmi. Ecco, insomma, voglio creargli ed essere sicuro di dargli una rete di assistenza ad hoc. Ad hoc. Ora, la legge perché è importante in questo e perché il trust? Perché se e poi tutto quello che io lascio, quel giusto che io lascio, no? La casa e i miei risparmi, che voglio lasciare a mio figlio, poi vengono fondamentalmente nel nostro paese, ahimè, mangiate dalle imposte, io non ho lasciato niente a mio figlio. Allora, l'importanza di questa legge, l'importanza del messaggio per le famiglie è questo. Allora, la legge consente che questi trust che hanno questa finalità, che io ritengo essere di utilità sociale, siano defiscalizzati, quindi saranno trust che non saranno soggetti a tassazione, ecco. Fin tanto che chiaramente abbiano questa certo. finalità, questo mi sembra evidente. È logico, quindi, però è meglio precisarlo. Andiamo da Alberto che ci chiama da Bergamo e poi Fiorenzo dalla provincia di Padova. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Grazie per averci chiamato. Grazie a voi per avermi richiamato. Io volevo chiedere delle informazioni, ad esempio, questa cosa qua può essere utile anche per mia figlia, nel senso, io ho un figlio disabile, la figlia e la sorella di 19 anni, che io volevo fare come amministratore di sostegno sì. o tutore. Come tutore. Esatto, e volevo capire se queste cose qua posso richiederle. Anche per la figlia, nel senso che sia lei voleva che sua figlia diventasse tutore, se può applicare, no? Seguire questo istituto del trust. Abbiamo esatto, capito bene? Grazie mille. Grazie sì, Alberto. Esatto, grazie. Ascolto mi radio, grazie. Sì, buongiorno. Avvocato. Alberto, sì, certamente. Sono due percorsi in questo momento, diciamo, alternativi, fondamentalmente. Sua figlia tranquillamente potrebbe diventare trustee del fratello, no? Cioè, potreste diventare voi trustee in questo momento, voi finché ci siete, e poi prevedere che una volta che voi non ci siete più, la sorella può prendere il vostro posto. Certo. Quindi nel trust voi potete, ecco perché potete programmare, quindi voi potete fondamentalmente prevedere questa struttura che dopo di voi già c'è un successore, senza passare fondamentalmente per il giudice. Okay. Quindi il patrimonio passa da voi alla sorella, che si prenderà questo impegno di gestirlo nell'interesse del fratello. Ecco, ricordiamo, lei l'ha sottolineato, che chi si assume il compito di gestire il trust, così rispondo ad alcuni messaggi, si assume anche degli obblighi giuridici, no? Delle grosse responsabilità. Ecco, e per le violazioni prevedono anche delle sanzioni molto pesanti, ecco, certo. A tutela naturalmente ancora del ragazzo. Ho detto bene, avvocato? Ha detto bene, quindi rispondere ad Alberto, è chiaramente, io nei trust che ho fatto, molto spesso le sorelle, i fratelli sono loro i trustee. Dopo i genitori, sempre. Io dico sempre, chiaramente date un peso, ma tanto poverini, questi fratelli e sorelle hanno già un peso nella loro famiglia quando hanno un fratello così, quindi lo sanno e magari una responsabilità, perché crescono con una responsabilità. Ecco, perché, e magari aggiungete a questi fratelli e sorelle che restano magari qualcun altro, perché spesso il trustee può essere anche un organo composto da più persone, sì. Quindi magari il fratello e magari un'altra persona, perché così magari le decisioni le può prendere con qualcun quindi altro. Quindi magari ci sono più fratelli, due fratelli che possono essere entrambi il trustee. Okay. Esatto, okay. Fiorenzo, buongiorno dalla provincia di Padova. Buongiorno, grazie della disponibilità. Ci dica. Io chiamo a nome dell'associazione Amami e sono anche genitore di un disabile. Sì. E è un'associazione, la nostra, che si occupa, che raggruppa circa 26 famiglie del circondario, mm-hmm. E si è posto il problema del dopo di noi. Dopo di noi però come strutture per residenzialità. Sì. Da 10 anni che ci stiamo andando dietro con alti e bassi, promesse Vabbè, e comunque. Beh, però vi state passetto dopo passetto. Passetto dopo passetto, ci però si arriva. Con molta difficoltà. Ecco, Fiorenzo, quindi. Allora, per il punto è questo: il punto è questo. Questo nuovo istituto, che se capisco bene si chiama Trust. Trust, no? Scritto Trust. Trust, bene. E può agire anche nei confronti di una fondazione, nel senso che se i genitori gestiscono i propri patrimoni nella funzione di gestire questa casa di residenzialità, sì. Questo istituto può essere una fondazione, può essere un trustee in sostanza, sì, questa è la domanda. Fiorenzo. No, penso che volessi chiedermi un'altra cosa. Comunque, penso. Comunque, trust e fondazione sono due cose alternative. Quindi, la fondazione ha un'altra finalità, è quella di fondamentalmente. La fondazione in Italia esiste ed è un patrimonio fondamentalmente con delle regole, con un patrimonio. Lì sì che è un patrimonio statico la fondazione. E, capisco le angosce di Fiorenzo, perché ha perfettamente ragione Fiorenzo: la residenzialità in Italia è bloccata. Ha perfettamente ragione Fiorenzo, quindi non riescono a fare nuovi progetti sulla residenzialità, questo lo capisco perfettamente. Ma se loro volessero andare al di fuori di questo, magari forse ho percepito loro, forse magari vorrebbero unire le forze, sì. Da quello che ho percepito io, e magari dice, abbiamo un appartamento, due appartamenti, li uniamo, quindi non è il singolo che si muove, ma i più soggetti che si muovono, questo ugualmente si può fare attraverso il trust, cioè più soggetti che mettono uno o due appartamenti a disposizione per più beneficiari, cioè per più figli. È un progetto che ugualmente si può realizzare col trust. Oggi non posso dirlo in questa intervista, ma se potete lasciare i miei numeri, potete, Fiorenzo mi può chiamare, l'associazione mi può certo, naturalmente potete scrivere come sempre a Cuore Denari, noi esatto. Inoltriamo le vostre richieste, i vostri dubbi, le vostre così richieste di aiuto ai nostri esperti, che sono sempre molto disponibili, sì, a darvi una mano. Esatto. Antonino, buongiorno da Pisa. Buongiorno. Io sono consulente di pratiche automobilistiche e ho letto questo nuovo istituto, questo trust, il trustee, in una circolare per quanto riguarda della disponibilità dei veicoli da parte dei trustee, cioè che un proprietario potesse far amministrare o usare o utilizzare un veicolo e questo proprietario potesse nominare un trustee. Ecco, questo avevo già letto. Vorrei capire, nel nostro istituto esiste anche il procuratore istitore, cioè colui che agisce in base a una procura istitoria, cioè in pratica con tutte le responsabilità derivanti dall'essere procuratore istitore. Sì. Ecco, mi sembrano due figure molto simili. Quali sono le differenze, se ci sono? Antonino, tra il trustee e il procuratore istitore, ecco. Volevo chiedere questo. Grazie Antonino, bella domanda, avvocato. In punto di vista devo dare risposta giuridica, chiaramente, che il trustee è pieno proprietario, ok? Quindi io ho la piena proprietà, poi chiaramente non sono procuratore, sono proprietario. Poi se lei, le faccio sempre magari più macroscopico, è quello di un immobile. Se lei dovesse andare in conservatoria e vedere il bene, torniamo che io sia il suo trustee, lei mi trasferisce un bene immobile, lei va in conservatoria e vedrà che questo bene immobile sì sarà a nome di Francesca Lupoi, ma non pure semplice, ma quale trustee del suo trust. Ok? Quindi si capirà che io ho la piena proprietà di quel bene, sì. Ma quella proprietà è vincolata per realizzare le finalità di quel trust. Ok? Quindi è una proprietà finalizzata, ma non sono un procuratore, io sono un proprietario. Altrimenti tutta quella garanzia che noi diamo del trust, di quel patrimonio che è destinato ad uno scopo, non l'avremmo se fossimo un mero procuratore. Ecco, questa è la differenza. Eh sì. Per qualunque dubbio 800 24 00 24, io non ho dubbi, me lo stanno segnalando dalla regia, devo dare la linea alle informazioni sul traffico, tra pochissimo. Cuore e denari. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà. Cosa succede? succede dopo di noi? La domanda di tanti genitori di ragazzi disabili che facciamo nostra a Cuore Denari, 800 24 00 24. In linea con noi l'avvocato Francesca Romana Lupoi per rispondere a tutte le vostre domande. Come anticipavamo, ci ha dato una buona notizia, insomma la legge è quasi realtà, ma mi chiedevo, avvocato, che cosa porterà come valore aggiunto questa legge alle famiglie italiane che hanno un figlio disabile? Beh, questa legge finalmente porterà per la prima volta un intervento legislativo unico, chiaro, per tutto il territorio nazionale, che è sicuramente un intervento grosso di portata culturale, perché il trust può essere applicato in diversissimi campi, può essere appunto uno strumento flessibile, può avere tante applicazioni positive, negative, come qualsiasi strumento. Finalmente l'Italia si è aperta ad un'applicazione estremamente valida, estremamente meritevole, che è quella appunto di applicarla ai soggetti disabili, di riconoscerlo uno strumento meritevole di tutela, e quindi penso sia un'operazione culturale veramente importante. E quindi trovare la parola trust per la prima volta in una legge applicata ai soggetti disabili è un grosso passo culturale che noi stiamo facendo. Avete tempo ancora di superare la nostra barriera rosa, 800 24 00 24. Continuate a raccontarci se conoscete la realtà di una famiglia con un figlio disabile, quali sono le preoccupazioni che vivete dal punto di vista del cuore, anche in particolare del denari, e proprio ai denari infatti che pensa la proposta di legge di cui parlavamo con la nostra esperta ospite in linea con noi, l'avvocato Francesca Romana Lupoi. Giovanni, buongiorno, ci chiama da Roma. Buongiorno dottoressa, un saluto a tutti. Buongiorno Giovanni. Senta, volevo fare una domanda, sì, riguardo, troppo anch'io ho un figlio disabile, volevo sapere se diciamo un domani che io non ci sarò più, la mia pensione di reversibilità può passare direttamente a lui? È obbligatorio avere, diciamo, la residenza insieme a me di questa cosa? Perché ho sentito questa cosa, però onestamente non mi sono informato bene, non ho mai approfondito. Vediamo se l'avvocato può darle una mano. Avvocato. Sì, questo è chiaramente dal campo del trust. Certo. Comunque la pensione di residenza chiaramente si ritengo proprio che si trasmetta al figlio. Adesso questo però è un aspetto che non è solo anche dal mio campo di... Allora chiediamo a Giovanni da Roma di scriverci e noi inoltreremo una risposta più dettagliata. Giovanni ci scriva e noi sicuramente sì. Il figlio ha già tutte le sue pensioni, immagino, no? Il figlio di... Immagino di sì, Giovanni. Sì. Certo. Disabilità, esatto. Giovanni, lei scriva a Cuore Denari e riceverà una risposta. Avvocato, stiamo parlando di questo istituto, lei ce l'ha spiegato bene, ma restano naturalmente qualche dubbio, la perplessità. Quali sono le domande tipiche che si fa a una famiglia che cerca di capire se il trust sia uno strumento adeguato, lo strumento adatto per la situazione della familiare precise in cui sta vivendo? Guardi, le domande quando già la famiglia venne qua da me, fondamentalmente le domande se le già do delle risposte, fondamentalmente, perché vuol dire che ha già maturato in sé che il trust è la soluzione per la famiglia. La domanda a cui a volte è difficile rispondere è trovare, quando non ci sono, trovare le persone. E quindi magari quando non c'è il fratello o la sorella, molto spesso non c'è, ma è il trustee. Allora dice: mi posso fidare, non mi posso fidare, che rete creiamo? Qui una parola importante, inserire sempre quello, noi oggi ne abbiamo parlato, la figura del guardiano, dico sempre io. Allora avviciniamoci alle associazioni che fanno tanto del bene a questi ragazzi, con cui i ragazzi crescono, vengono assistiti, e magari inserire un'associazione trustee, l'altra associazione guardiano, e quindi sono figure che si compensano. Ecco, il guardiano già il termine ce lo racconta bene, ma mi profili un po' questa figura che mi sembra che sia una garanzia in più per... Sì, nelle leggi sui trust di famiglia la figura del guardiano è una figura obbligatoria. Perché? Perché il trustee si trova a compiere delle scelte molto importanti quando non ci sono più genitori, di grossa responsabilità. Citiamone alcune, avvocato. Citiamone alcune. Perché così entriamo proprio nella quotidianità. I genitori hanno detto il ragazzo deve stare in questa casa. Ma ipotizziamo che la casa a un certo punto il denaro che sta in banca non basta più per mantenere quella casa. Allora il trustee deve dire: io a questo punto devo prendere una decisione, certo. Non ho più, non posso più mantenere questa casa, i genitori magari mi hanno chiesto che il ragazzo resti in questa casa, ma io dovrei vendere questa casa con il ricavato, perché lo può fare, prendo una casetta analoga, più piccolina, magari nella stessa zona, e così magari e prendemela in affitto. Beh, è una scelta importante questa. Caspita, certo. Cerco di rispettare la volontà dei genitori, ma mi devo adeguare alla situazione economica nuova. Chiarissimo. È una scelta molto importante. Ecco perché, torno al discorso, non è un patrimonio congelato. Questo è il caso in cui si capisce perfettamente che è un patrimonio in evoluzione, perché altrimenti si deve adattare. Realizzare deve trovare sempre la situazione, la soluzione migliore per il ragazzo. La finalità iniziale dei disponenti, dei genitori. Certo. Ok. Allora, questo con la fondazione sarebbe irrealizzabile. Ecco un altro paragone che in pochi minuti posso dare. Allora qui il trustee dice: oddio, ma io sto facendo bene. Allora a questo punto chiamo il guardiano, che magari qui sono un collegio di parenti. Ditemi voi che conoscete bene il ragazzo, magari, allora ditemi voi se andrebbe bene la casa in questa zona oppure quest'altro appartamento. Ecco, qui si può consultare con un organo che si chiama appunto l'organo di vigilanza, il guardiano, il protector in diritto inglese. E quindi ecco, nelle scelte di maggiore importanza vi è una consultazione o un parere secondo come poi è redatto l'atto di trust. Avvocato, lei ha detto di solito i genitori quando arrivano da me hanno già le idee chiare, la figura di riferimento è sempre solo l'avvocato? È l'avvocato o il notaio? Avvocato e notaio, queste, ma bisogna scegliere professionisti che abbiano una specializzazione particolare? Sì, questo è molto importante. Ecco, quali sono quindi qual è la specifica che mi fa capire che è l'avvocato giusto con cui avete un'etichettina? Io, noi come associazione abbiamo nel nostro sito internet c'è un registro dei professionisti accreditati. È questo che volevo sapere. Quindi ricordiamo il vostro sito internet per raccogliere tutte le informazioni, avvocato? www.iltrustinitalia.it. Molto semplice. Molto semplice per avere tutte le informazioni, oppure potete scrivere anche per tutti i vostri dubbi a Cuore Denari. Gli sportelli di Cuore Denari, come sapete, sono sempre aperti. Lunedì torna anche Deborah. Intanto buon weekend a tutti voi, un saluto da Nicoletta Carbone e un grazie all'avvocato Francesca Romana Lupoi per la sua chiarezza e per essere stato con noi, e complimenti, ormai ci siamo.